9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 13 di settembre. Oggi abbiamo deciso di dedicare una giornata a la parte della magistratura e dell'ordinamento che è più esposta e che in anni di feroci polemiche politiche sui tipi di sentenze che fanno i magistrati e i giudici, sull'invasività del potere attribuiti al pubblico ministero nel nostro ordinamento, sullo scontro politico tra la rappresentanza dei magistrati da una parte e politica dall'altra, tendiamo poi a un po' colpevolmente a dimenticare. Quindi oggi noi non ci occupiamo dell'agenda che da anni divide e alza la polemica nel dibattito pubblico intorno alla riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario, separazione delle carriere da una parte, dall'altra legge ad personam, no, perché qualche giorno fa una notizia di quelle su cui oramai passa l'occhio a noi giornalisti e non ci fa più fremere, non ci fa considerare altro se non ordinaria amministrazione, a me, Alessandro Marco Tulli, che è l'insostituibile mio suggeritore, organizzatore di trasmissioni, ci ha fatto fermare e cadere la penna sul tavolo. È una notizia purtroppo che è ordinaria da troppi anni. E a che cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che alla Procura di Enna, una delle sedi giudiziarie tradizionalmente meno ambite d'Italia, ci sarà solo un magistrato, perché l'ultimo sostituto che era in servizio, Marcello Cozzolino, ha chiesto un trasferimento, l'ha ottenuto e quindi resta solo il procuratore capo, che si chiama Calogero Ferrotti, il quale naturalmente è costretto a farsi letteralmente in quattro, perché in teoria lui avrebbe diritto ad altri quattro sostituti oltre a lui che è capo dell'ufficio, e di sostituti non ce n'è nemmeno uno. E stiamo parlando di Enna, il profondo della Sicilia. Del resto la notizia diceva: bah, non è che si deve poi preoccupare troppo il procuratore capo Calogero Ferrotti, perché tanto alla fine della prossima primavera, pensate, solo tra 7 mesi in definitiva, cosa volete che siano 7 mesi? Ma tra 7 mesi gli arriveranno 3 uditori giudiziari, 7 mesi in cui naturalmente i reati non è che manchino, non è che i procedimenti accumulati non accumulano altro ritardo. E i commenti che c'erano a questa notizia, anche il tono con cui era scritta, devo dire, ci ha fatto trasalire. Lì per lì non ce eravamo accorti e ci siamo detti: ma forse abbiamo bisogno di dedicare una puntata e di far anche riflettere i nostri ascoltatori intorno al fatto che, a furia di fare polemica sulla giustizia, poi si dimenticano le emergenze vere, le denegate giustizia, milioni di procedimenti pendenti, gli strumenti più adeguati, perché laddove si compiono reati, e magari reati di organizzativi, di cosche e di organizzazioni tra le più terribili, e per cui purtroppo il nome dell'Italia è infangato nel mondo da sempre, si lasciano poi pochissimi uomini con pochi mezzi. Di solito le si considera quasi argomenti polemici con cui i giudici, la rappresentanza dei giudici, danno una risposta alla politica per dire: ah, voi volete separare le carriere, non ci date però quello che ci serve. Però poi alla fine, se uno va a vedere e si pone il problema seriamente: ma com'è possibile che in sedi così delicate da anni ci sia sempre questo problema? Scopre che, come sempre in Italia, bisogna essere disposti a mettersi la cenere sul capo, perché non è che c'è solo Enna. Per esempio, solo in questi giorni ci siamo resi conto che ce ne sono altre sedi in condizioni del tutto analoghe. Una di queste è Nicosia. Nicosia è da sempre nota, per chi faceva il concorso in magistratura, come essere praticamente la sede insieme a Locri in cui nessuno voleva andare, e guarda caso a Nicosia lunedì, cioè proprio oggi, si insudia un nuovo procuratore che si chiama Fabio Scavone, e per 2 settimane c'è un unico sostituto, che è stato il pubblico ministero Daniela Cento, che però parte il 30 settembre pure lei, e quindi il nuovo procuratore che arriva oggi resta solo per un bel po' di mesi anche lui, perché anche per lui 2 uditrici arriveranno a fine della primavera, e speriamo che il procuratore non si ammali, perché sennò in sede non resta nessuno poi a rispondere ai telefoni quando si è di turno. Quando si va a vedere come mai succedono cose simili, si scopre che, però ripeto, questa è la mia modesta opinione, poi bisogna cospargersi il capo di cenere. Perché? Perché nell'ordinamento italiano fino al 2006 l'attribuzione delle sedi era collegata alla graduatoria del concorso, quindi si vinceva il concorso in magistratura a seconda di quanto in alto era in graduatoria. Avevi la preferenza per l'indicazione della sede, e quindi cosa accadeva? Accadeva inevitabilmente che le sedi più terribili, quelle che vengono chiamate disagiate, perché di solito sono in parte d'Italia, tipo la Calabria, il profondo della Sicilia, dove insomma le condizioni sono terribili, perché sono condizioni terribili nel senso che non è che si campa peggio perché la gente è antipatica, dove i magistrati sono costretti ad affrontare condizioni terribili per il tipo di delitti che si compiono, per il tipo di mancata collaborazione che viene dalla società, eccetera, eccetera. Ecco, quelle sedi lì finivano per essere scelte da quelli che erano ultimi in graduatoria, e fu poi a un certo punto la famosa polemica sui giudici ragazzini, ve la ricordate, quella sollevata da Cossiga, però fino al 2006 è rimasto così. Nel 2006 è cambiato l'ordinamento, governo centrosinistra, ministro Mastella, con l'indicazione di una norma per cui non potevano essere più i giudici ragazzini, ma bisognava accumulare una certa esperienza, tirocinio, uditorato per questo tipo di sedi, e con una lunga norma di attuazione fino al 2014 che in realtà demanda poi al CSM la copertura adeguata di queste sedi. Da allora esplode la polemica, perché il CSM è in ritardo nel coprirle e nell'indicare delle priorità precise. Rinvio all'intervista del vicepresidente nuovo Michele Vietti, uscita sulla stampa, Michele Vietti UDC, il nuovo vicepresidente del CSM, che ammette e riconosce che questo è un punto in cui il CSM ha delle responsabilità. Tutte le volte che il governo di colore successivo, sto parlando degli ultimi due anni, ha tentato di intervenire su questo, l'ANM, l'associazione, la magistratura associativa, diciamo così, ha sollevato forti polemiche attribuendo al ministro Alfano scarso rispetto dell'autonomia della magistratura. Sta di fatto che però, per una ragione o per l'altra, queste sedi restano scoperte e queste casi si ripetono. Allora, non è oggi per tentare di dar colpa ad alcuno, però abbiamo deciso di fare una puntata così. Primo, vogliamo sentire il procuratore capo di Enna, che disturbiamo per pochi minuti giusto per fargli dare una testimonianza, per farci spiegare e per dargli la solidarietà nostra e di tutti gli ascoltatori. Poi abbiamo che vi presento, perché è collegato con noi il procuratore capo di Enna, Calogero Ferrotti. Buongiorno procuratore. Poi abbiamo deciso di fare la puntata chiamando un giudice il cui libro ci è venuto subito in mente leggendo l'ennesimo caso di Enna e di Nicosia, e il giudice si chiama Francesco Cascini. Questo libro è un libro Einaudi che io raccomando a tutti, perché è veramente un libro breve, esile, sono 170 pagine, ma prende come un pugno allo stomaco. Raramente capita, perché poi la letteratura giudiziaria è un po' inflazionata, ma questa è una storia vera di uno che a 25 anni, il giorno in cui compiva 25 anni, l'11 aprile che compiva 25 anni, era già in magistratura e andava appunto a una di queste sedi disagiate, insieme a Nicosia, quella che all'epoca era in fondo alla graduatoria Locri, e scrive qui la sua esperienza dei suoi primi 4 anni, da quando aveva 25 a 29. A Locri, ed è un bellissimo libro, si chiama Storia di un giudice nel far west dell'Andrangheta, e qui con noi Francesco Cascini, io lo ringrazio. Grazie Cascini. Grazie a voi, buongiorno. Allora, iniziamo dal procuratore di Enna. Come ci si sente soli, abbandonati, come diceva la vecchia canzone di Domenico Modugno? Anzi, lui diceva siamo solo in tre briganti e tre somari. Lei non ha i somari, ma di briganti qualcuno forse, mi auguro non troppi, però è solo. Ma perché si ripete sempre, dottor Ferrotti, questa condizione così spesso? Ma con riferimento particolare alla panoramica che lei ha tracciato, che è veramente completa ed esaustiva, vorrei soltanto aggiungere che la situazione che riguarda Enna, oltre Nicosia che lei ricordava, riguarda anche Gela, perché queste tre procure che fanno parte di un unico distretto di corte d'appello, quella di Caltanissetta, queste tre procure tra qualche giorno, su 12 posti complessivamente previsti in organico, presenteranno una scopertura di 11 posti, quindi abbiamo un triangolo di tre procure limitrofe e ad alta densità mafiosa che tra qualche giorno avranno un solo sostituto sui 12 previsti in organico. L'unica procura che potrebbe da questo punto di vista dare una mano con un'applicazione distrettuale è la procura di Caltanissetta, che anch'essa è penalizzata sia pure in misura meno grave da gravissime carenze di organico e poi notoriamente è impegnata in grosse e delicate indagini riguardanti gravi efferati reati quali la strage Falcone Borsellino. Quindi è una situazione unica in Italia di un intero distretto comprendente quattro procure e si trova in una situazione estremamente critica. E sotto questo profilo come si opera? E innanzitutto è una situazione cronica per quanto riguarda ENA, perché da due anni io mi sono trovato con un solo sostituto sui quattro previsti in organico, adesso in questi giorni è andato via anche l'ultimo e quindi mi ritrovo solo. Mi è stata assicurata un'applicazione a breve di un sostituto della procura di Caltanissetta e questo dovrebbe consentirci di continuare a vivacchiare in una situazione di estrema precarietà fino ad aprile del 2011, che come giustamente lei ricordava è la data entro la quale dovrebbero prendere possesso i magistrati di prima nomina. Mi chiedeva lei opportunamente come siamo giunti a questa situazione. La situazione risale, le premesse direi tragiche di questa situazione risalgono a quella normativa che lei ricordava, normativa che ha precluso ai magistrati di prima nomina di andare ad occupare i posti in procura. Con la conseguenza che in questi anni si è nel contempo assistito a un fenomeno di migrazione dai posti requirenti verso la giudicante per una crisi un po' di vocazioni che si registra nella categoria, perché il ruolo del pubblico ministero, secondo quelli che possono essere future riforme, è molto incerto e quindi si assiste a un continuo esodo di magistrati che dalla giudicante vanno alla requirente. Nel contempo si sono sbarrate le vie di accesso, le fonti di approvvigionamento, chiamiamo così, per ricoprire i posti in procura. Conseguentemente in questi tre anni si è assistiti a un continuo dissanguamento delle procure, prevalentemente quelle del Sud Italia, Sicilia e Calabria. E gli interventi sul piano normativo che sono stati posti in essere in questi ultimi due anni, quello di introdurre degli incentivi economici o di carriera per le sedi cosiddette disagiate, non hanno avuto successo. Perché innanzitutto per la categoria delle sedi disagiate è una categoria, come disciplinata dalla legge, direi ragionieristica, perché è completamente disancorata a quella che è la realtà, in quanto i requisiti per poter rientrare nella categoria sono legati alla scopertura di almeno il 20% dei posti, e che nell'ultima pubblicazione non vi siano stati aspiranti, e conseguentemente in questa categoria sono rientrate anche sedi come Imperia, Sanremo, Belluno, Gorizia, Lodi, che obiettivamente non possono definirsi disagiate. Nel contempo sono stati anche estesi i benefici di questa legge anche ai posti di giudice della giudicante, e conseguentemente le sedi realmente disagiate, quali possono essere Nicosia, Gela, Enna, Locri, non hanno avuto concretamente alcun aspirante. La legge è nata male anche perché vi erano dei paletti eccessivamente rigidi, quale le distanze chilometriche tra la sede di provenienza e la sede di destinazione, che non potevano essere inferiori ai 100 km, fatto sta che la legge non ha avuto praticamente successo per le sedi realmente disagiate. La normativa prevede che, esaurita la fase delle pubblicazioni delle sedi disagiate, fase che già si è esaurita nel 2010, il Consiglio Superiore dovesse disporre i trasferimenti di ufficio. Lì il Consiglio Superiore, sia pure con un dibattito interno che vi è stato con il passato Consiglio Superiore, ha ritenuto di accantonare con queste procedure in attesa della disponibilità degli uditori, i magistrati di prima nomina che, come ricordava lei, arriveranno aprile del 2011. E si è anche anticipato un po' di due mesi il periodo di tirocinio, perché sarebbe venuto a cadere nel giugno del 2011, si è anticipato di due mesi, però obiettivamente sette mesi sono dei tempi troppo lunghi perché la giustizia non può attendere. Quindi ecco, ci troviamo in una situazione un po' di impasse. Adesso siamo fiduciosi che il Consiglio Superiore nuovo prenda in carico il grave problema che oggi riguarda Enna, ma tra qualche settimana, un mese, riguarderà tante altre procure. Siamo fiduciosi in qualche soluzione che venga posta in essere per porre fine a questa situazione di disagio che non può essere protratta per altri sette mesi. Guardi, procuratore, io devo dire da vecchio aspirante in concorso in magistratura, che poi ha cambiato molto idea negli anni su come non funziona e non funziona, le posso solo dire questo, che di fronte al fatto che voi pensate tre procure in un distretto di corte d'appello, 11 su 12 che mancano, poi abbiamo tutti voglia a dire, a tirarci i capelli sulla la giustizia che non funziona. Io posso semplicemente dire al procuratore che noi ogni tanto gli butteremo una telefonata per sapere se con le nostre trasmissioni, i nostri programmi, che non possono fare nulla perché nel frattempo i faldoni si accumuleranno, nessuno se ne occuperà, nuovi reati e delitti verranno compiuti, il procuratore Ferrotti farà il possibile, ma semplicemente per ricordare all'opinione pubblica che tutte queste contese e queste polemiche che poi negli anni accumulano problemi irrisolti sull'efficienza e la funzionalità della giustizia addolorano i magistrati oltre che negare giustizia ai cittadini, e non fanno bene al nostro paese. Forse dovremmo iniziare a concentrarci proprio dall'efficienza almeno minimale della giustizia nelle aree più terribili dove la sfida è storicamente peggiore. Quindi solidarietà e sostegno al procuratore capo di Enna Ferrotti, noi davvero ci faremo vivi, e poi giustamente lui non avrà tempo neanche di risponderci, ci dirà ragazzi, io ve l'ho detto, aspettiamo che arrivino gli uditori. Ma la solidarietà e il sostegno che vogliamo dare al procuratore capo di Enna, e far pensare tutti voi a casa su cosa vuol dire vivere in un paese in cui in terre di mafie, di camorra, di 'ndrangheta, questa è la concreta risposta che poi nell'annosità delle polemiche lo Stato continua a opporre a chi lo sfida e ne esercita più imperativamente e in maniera più efficace le prerogative sovrane, perché io dico sempre che poi nel nostro paese la sfida lanciata è evidente, che chi è più efficace nelle prerogative sovrane in buona parte del paese, e in buona parte del paese una parte crescente, perché quello che poi capita in Lombardia, ne abbiamo parlato nelle inchieste sulla 'ndrangheta, non è che faccia pensare che poi l'Italia è immune tranne che a metà. E allora ci ha fatto pensare veramente a questo libro fantastico, La storia di un giudice nel far west della 'ndrangheta, di Francesco Cascini, che appartiene a una famiglia di magistrati. E Francesco Cascini non è, anche se ha un grado di parentela stretta, il capo, il Cascini di cui si legge tutti i giorni sulla stampa, cioè capo dell'ANM. Francesco Cascini ha scritto questo libro raccontando esattamente l'esperienza di uno di quei giudici di prima nomina che si tentò nel 2006 di non mandare più nelle famose sedi disagiate come Enna, come Nicosia, come Locri, e a lui capitò a 25 anni, famiglia di magistrati, di dover andare proprio lì, di dover andare a Locri, e racconta in questo libro che cosa si prova ad arrivare in un posto dove non si conosce nulla, per quanto si possa credere ferrati in che cosa significa essere al centro, al cuore della 'ndrangheta, avere competenza su Platini, San Luca, però arrivati lì a 25 anni, quando si è veramente molto giovani e non si ha esperienza, a trovarsi poi di fronte a montagne di carte che tentano di parlare forse più della gente che c'è intorno, ma di cui prima di venire a capo della lingua, di ciò che c'è scritto e soprattutto di ciò che non c'è scritto, ci metti anni e anni, quando inevitabilmente ti verrà voglia di andartene. Allora, Francesco Cascini, che cosa prova nel sentire vicende come queste? Lei oggi è al Ministero, dopo i 4 anni passati a Locri, poi dopo altri anni passati a fare il pubblico ministero a Napoli. Però il fatto che dopo anni di polemiche sui giudici ragazzini alla prima nomina siamo in definitiva, non dico a rimpiangere, ma di fatto, visto quanti posti in organico sono scoperti, in posti delicati, quasi a rimpiangere, ce lo diceva il procuratore di Enna, il fatto che almeno prima, per quanto discutibile fosse il meccanismo per cui lei è andato a Locri a 25 anni, però era un meccanismo per cui qualcuno, sempre al di sotto dell'organico dell'ufficio, ma ci andava a Locri, anni così a Enni. Adesso non ci va nessuno da anni e sono tutti buoni a fare polemica. Cosa prova di fronte alla sua esperienza di 25enne di allora, di fronte al fatto che poi in definitiva passano gli anni, ma in definitiva il punto è sempre quello? Ma guardi, quando io sono arrivato a Locri i posti in organico erano 10. Eravamo 2 uditori e dopo qualche mese rimanemmo in 3, quindi c'era una scopertura di 7 posti con un arretrato enorme. Il problema c'è sempre stato, è chiaro che ora è aggravato da questo ostacolo normativo. È ovvio che in posti del genere sarebbe auspicabile mandare le risorse migliori, i magistrati più esperti, le forze di polizia più specializzate, ma così non è mai stato, per cui gli uditori hanno sempre rappresentato una risorsa per questi luoghi, sia pure con le difficoltà dovute alla giovane età e alla scarsa esperienza. Io dico, insomma, per l'esperienza che io ho riportato, che l'amministrazione ordinaria della giustizia in posti come Locri, come Enna, ma più in generale nel sud Italia, è molto grave non riuscire a dare delle risposte alle domande minime di giustizia, a quelle ordinarie, perché questo provoca un rafforzamento della sfiducia nelle istituzioni che è già molto forte in territori come questi, un rafforzamento dell'idea per cui alla fine non interessa a nessuno. E soprattutto apre la strada a possibilità alternative di risolvere le proprie controversie, le proprie questioni, che lì ci sono. C'è una vera e propria forza alternativa rispetto allo Stato che può rappresentare una soluzione dei propri problemi. Per cui se non si riesce a dare delle risposte di tipo ordinario, oltre ai gravi fatti che ci sono, sui quali ovviamente è necessario indagare e lavorare, ma la difficoltà di dare risposte ordinarie crea veramente delle distorsioni molto serie, per cui su questo bisognerebbe riflettere molto attentamente. Nel suo libro lei, oltre a descrivere passo passo come, arrivando dal nulla e parlando con i fascicoli, con un solo procuratore, 2 colleghi poi che ruotano spesso, sia difficile, complicato, inevitabile, no? Nessuno nasce imparato, quindi tantomeno più o meno in una realtà come Locri, dove si tratta di capire ciò che non parla. E a un certo punto lei arriva, man mano che si procede sul rilievo, dopo i tanti delitti che le piombano addosso quando è di turno, a un certo punto lei inizia a porsi il problema di: ma come mai non ci sono processi, procedimenti aperti su, per esempio, tutta questa storia, che qua ci sono centinaia di richieste che vengono riconosciute di soldi della comunità europea, come se ci fossero chissà quante aziende agricole, qua le aziende agricole non ci sono. Lei inizia a quel punto a far fare indagini, eccetera, eccetera. Dopodiché, piuttosto che continuare a condannare, a smascherare finti titolari ignoranti che non sono neanche totalmente analfabeti, che mascherano questa truffa, ponendosi il problema di dover arrivare a un livello più su, dice: ma con queste forze noi a livello più su non ci arriviamo. E la stessa cosa capita per i reati contro la pubblica amministrazione. Racconta della difficoltà di fare indagini sull'ospedale di Locri e su connivenze, massonerie e così via. Mi sono andato a questo punto a ricavare 2 dati, e tanto ha ragione quello che viene descritto nel libro di Francesco Cascini, che vi invito a riflettere voi a casa. Nell'intero distretto del Corte d'Appello di Reggio Calabria, in 19 anni sono state pronunciate solo 2 sentenze per corruzione e una per concussione. Ecco, l'effetto di una organizzazione come questa degli uffici giudiziari ha queste conseguenze. Ora, credere, con tutto il rispetto, che nella Calabria corruzione e concussione non ci siano mi pare difficile, e mi pare di capire che è la stessa cosa che lei scrive in questo libro. Ma allora perché i migliori magistrati, le migliori forze dell'ordine, dice, ma perché i RIS sono a Parma quando servirebbero qua? Lei dice a un certo punto, la prima volta che c'è un omicidio. Però alla fine la risposta da dare a questa domanda, dottor Cascini, qual è? Guarda, io me lo sono chiesto, nel libro pongo la questione soprattutto dei RIS, ma questo vale per i carabinieri, per la polizia, per la magistratura. Io credo che dipenda, me lo sono chiesto anche pensando a me, io sono stato lì, perché non sono rimasto? Io credo che dipenda dal fatto prima di tutto che in questi posti si vive molto male. Non è solo un problema di lavoro, di esposizione al rischio, sono posti dove si vive male. Se stai poco bene e sai di dover andare in una struttura ospedaliera che non offre nessuna garanzia per, oppure se hai un figlio e pensi di dover mandare tuo figlio in quell'ospedale che non ti offre nessuna garanzia, questo ti spinge inevitabilmente ad andare altrove. E se non hai altri servizi altrettanto importanti, quali sono quelli dell'assistenza, oltre a quella sanitaria, dei servizi, dell'assistenza ordinaria che riguarda la vita di tutti i cittadini, ecco, tutte queste mancanze determinano una qualità della vita estremamente bassa, per cui i RIS a Locri non ci sono perché non c'è nessuno che vuole stabilmente stare lì. I magistrati anche di Locri se ne vanno perché lì si vive molto male. Questo oltre alla presenza della oppressiva, della criminalità organizzata, alla violenza, ma c'è una serie di carenze di tipo strutturale, di servizi che riguardano la comunità nel suo complesso, che rende lì la vita molto complicata, molto difficile, una qualità della vita molto bassa, e questa è la ragione principale per cui la gente se ne va. È chiaro che si preferisce stare in una città che offre più opportunità, che offre più servizi, che offre una qualità di vita maggiore. Per cui il problema ci sarà sempre, perché ci sono tanti magistrati bravi, calabresi che vivono e lavorano altrove, perché sono, pur essendo nati lì, sono quelli che dovrebbero essere i più motivati a restare. Questo qua riguarda anche le forze dell'ordine, anche lì c'è un turnover spaventoso, non c'è più nessuno delle persone che hanno lavorato con me qualche anno fa a Locri o a Reggio Calabria, sono tutti cambiati. Quindi questo riguarda, come dire, forse più in generale le condizioni in cui si trovano questi territori, sulle quali bisognerebbe prima di tutto lavorare. Oh, naturalmente poi bisogna distinguere, perché i magistrati, a seguito di come funziona e come è organizzato nel nostro ordinamento, l'ordinamento giudiziario, come vedete, possono scegliere. Le forze dell'ordine sono o non sono lì, perché poi è il governo che le manda o non le manda. C'è una telefonata su questo, Alessandro da Torino. Prego Alessandro, cosa voleva dirci? Pronto dottore, appunto volevo chiedere al dottor Cascini questo. Io conosco abbastanza bene l'arma dei carabinieri e proprio ultimamente parlavo con un mio amico, un colonnello comandante importante che conosce personalmente quelli che noi chiamiamo i pezzi grossi, cioè il ministro della difesa, il presidente del consiglio, li conosce personalmente ed è stato comandato recentissimamente a comandare, appunto, scusate le parole, una zona disagiata in Sicilia. Lui dice signor sì, e ci va pur essendo pluridecorato eccetera, perché però questo non lo decide il governo, lo decide l'arma dei carabinieri. Perché la magistratura, che è così indipendente, così potente, così autonoma e così forte anche, non è in grado al proprio interno di comandare i propri dipendenti validi e valorosi ad andare a combattere, se questi non vogliono andare per motivi loro, andare a farlo comandati? Perché il mio conoscente, diciamo, non può dire di no. È obbligato. Militare, batte i tacchi e va. Ma dove l'arma? La dovrebbe anche dire, ti tocca, vuoi fare il magistrato, visto che è la magistratura, se lo indica, esatto. Perché non riesco. Allora guardi, io intanto gliela faccio dare. Noi abbiamo collegato con noi Raffaele Cantone, che a cui spesso rompiamo le scatole quando facciamo trasmissioni su questioni giudiziarie, è un ex pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Napoli, oggi in Cassazione. Anche lui ha scritto un libro che citiamo spesso, che si chiama Solo per giustizia. Raffaele Cantone, che risposta possiamo dare a questo ascoltatore, Cantone? Come mai la magistratura, insomma il CSM, esita così tanto, a differenza dell'arma dei carabinieri? Ci deve chiedere l'ascoltatore. Lei che pensa, Cantone? Prima di tutto buongiorno e mi faccio salutare Francesco Cascini, con il quale siamo amici, è stato forse il mio primo uditore che ho avuto quando ancora ero giovanissimo magistrato, e quindi saluto con grande affetto. La risposta io credo che non sia affatto semplice, perché la magistratura gode di una serie di garanzie, quale l'inamovibilità e la impossibilità di operare il trasferimento d'ufficio, e si tratta di garanzie previste direttamente nella Costituzione, che hanno un senso proprio per tutelare l'indipendenza dei magistrati. Ovviamente il problema che lei pone, che poneva anche nelle sue parole molto illuminate Francesco Cascini, non può essere sottovalutato, ma deve essere risolto creando le condizioni, perché è facile fare i paragoni con gli ufficiali dei carabinieri, i quali ufficiali dei carabinieri vanno in un posto, restano un certo periodo e poi ne ottengono anche, fra virgolette, vantaggi di carriera. È da tempo che si chiede al Ministro di fare anche un provvedimento che tenga conto, per esempio, delle possibilità, dei vantaggi di carriera che ci possono essere. Il Ministro Alfano qualcosa ha fatto, ma quel decreto poi non è stato attuato perché secondo me ci sono tutta una serie di passaggi che non rendono effettivamente appetibile andare all'Ocri. Io le faccio un paradosso, ma perché lei può chiedere al dirigente di un'agenzia delle entrate o a un qualunque altro funzionario pubblico di spostarsi da Milano a Reggio Calabria per andare in un incarico dove c'è un posto vacante? Ma questo, vede, dottor Cantone, qui tocchiamo proprio il punto, cioè la presunta inamovibilità che viene rafforzata per via dell'autonomia, insomma, come è giusto, del giudice e di chi appartiene all'ordine giudiziario, è un problema, non una soluzione quando è collegata al posto pubblico. Questo è un problema, però diciamo, io non credo che le persone non debbano essere tenute conto anche per le loro esigenze. Giustissimo. Io, per esempio, se dovessi fare una scelta ideale, non avrei nessun dubbio ad andare a Reggio Calabria, a Locri, a Palmi, ma a parte le cose che diceva Francesco Cascini giuste sulle difficoltà di vita, io credo che a nessuno può essere chiesto di sradicare una famiglia. Non è che il magistrato, il funzionario è una persona che vive da sola. Allora tu devi dare anche le condizioni perché valga la pena andare a lavorare in contesti nei quali vi è un handicap di partenza rilevantissimo, che sono proprio le condizioni di vita. E allora io mi chiedo perché, per esempio, dopo 20 anni di carriera una persona dovrebbe scegliere di andare a Locri. E a questa domanda bisognerebbe dare una risposta che valga la pena di andare a Locri. Proprio perché la persona dopo 20 anni di carriera, dopo 15 anni di carriera, io conservo intatto il mio entusiasmo, e però se dovessi andare a Locri purtroppo non ci andrei, perché ho una famiglia, perché ho i miei interessi, perché tutto sommato sarebbe anche dal punto di vista della carriera un ritorno indietro. E allora la domanda è: dobbiamo rendere appetibili certe zone, dobbiamo fare in modo che certe zone non ci si vada quasi come se fosse una punizione. Voglio dirle una cosa, questo è un tema che fu lanciato per la prima volta nel 1991 dal ministro Martelli, e però si ritorna senza cercare di trovare soluzioni, chiedendo tutto sommato semplicemente ai magistrati di fare una valutazione di responsabilità. Nel 1991, mi scusi se mi dilungo, ci fu questa richiesta di Martelli di dire ai magistrati del Nord perché non è andata nelle sedi disagiate del Sud. Qualcuno fece la scelta, pochissimi per la verità, ma qualcuno la fece questa scelta, ma è una scelta che non ha pagato. Allora io dico, noi parliamo da 20 anni su questo argomento e non troviamo una soluzione, perché in realtà non si incentiva realmente la possibilità di andare in sedi come quelle. Io devo dire la verità, io ringrazio molto Cantone, io spero che non si pensi a incentivi di tipo monetario, perché altrimenti si rinfocola ulteriormente. Non mi fate ridire, come ci è già capitato troppe volte di fronte alle polemiche della politica, che inseguire l'incentivo monetario in relazione a come vengono pagati automaticamente i magistrati, a come c'è l'agganciamento poi tra parlamentari e funzione direttiva di Cassazione, è un punto sul quale, secondo me, per delicatezza e per evitare nuove polemiche bisognerebbe evitare. Cosa diversa è invece l'organizzazione del contesto nel quale, ovviamente, perché se si vuole avere una famiglia e non fare il frate cenobita come all'inizio Francesco Cascini a 25 anni si trova a fare, come descrive magistralmente nel suo libro, allora lì si tratta di organizzare dei contesti, questo sì, perché io sull'incentivo monetario devo ammettere che avrei qualche problema. Vi leggo una frase che descrive l'inizio di ciò che trova giovane Francesco Cascini alla sua prima assegnazione all'Ocri. Dopo qualche settimana cominciarono a entrare nel mio ufficio circa 150 nuovi procedimenti ogni mese, che si andavano ad aggiungere ai 3.000 procedimenti di arretrato. Ogni 3 settimane facevo un turno per 7 giorni consecutivi e quasi tutti i giorni ero impegnato in udienza o in corte d'assise. A un certo punto l'alternativa era o non dare risposte o darle con molto ritardo. Scegliere tra le risposte quelle più urgenti relative ai fatti più gravi o dare molte risposte, ma alcune necessariamente sbagliate o superficiali. È una questione che non sono mai riuscito a risolvere. leggetelo davvero questo libro, perché a volte vi verrà un dubbio prima di muovere la lingua troppo velocemente, perché esistono tante parti del nostro sistema giustizia che non funzionano perché sono pessimamente organizzate, con pessima distribuzione di risorse. Non è vero che noi spendiamo meno degli altri paesi europei, noi spendiamo mediamente non meno, ma anzi di più. Non è vero che abbiamo pochi magistrati, ma è chiaro che come si organizzano e come si incentivano queste risorse, questo è il punto. Però questi sono i problemi concreti che poi un pubblico ministero si trova a dover affrontare di fronte al suo tavolo. La domanda che faccio a Francesco Cascini, al di là del fatto che poi l'ha scritto nel libro come la pensa, ma oggi cambierebbe qualcosa di quello che ha fatto, e poi una domanda: lei spiega che quanto è complicato di fronte a regolamenti di conti che vanno avanti da decenni, come quella tra le due cosche locali, Cordì, Cataldo, chi viene dopo di lei in quel posto? Poi viene da lei ad abbeverarsi in ciò che a lei è costata così fatica accumulare da solo? C'è un meccanismo che tramanda e traduce il sapere accumulato del pubblico ministero in pubblico ministero, oppure ogni pubblico ministero poi è un'isola e ricomincia da zero quando arriva? Domande confuse, ma insomma veda lei di illuminarci. No, dunque, certamente se io tornassi a Locri adesso, io ora ho 15 anni di magistratura, di esperienze anche importanti fatte a Napoli proprio insieme a Raffaele, sarebbe molto diverso. Io sono convinto che sia sbagliato mandare ragazzi giovani alla prima esperienza in territori così difficili, e quindi sicuramente sarebbe molto diverso, sarebbe molto diverso il mio approccio. Temo che i risultati più o meno sarebbero analoghi. non credo sia cambiato molto, e penso sia molto difficile esclusivamente per la via giudiziaria fare qualcosa di risolutivo in quei luoghi. Per quanto riguarda invece la seconda questione che poneva lei, beh, come dire, Locri è una sede disagiata dove i giovani magistrati tendenzialmente stanno tutti insieme. Questo forse traspare anche da quello che ho scritto nel libro. C'è un grossissimo clima di solidarietà e di assistenza reciproca. Non c'è altro da fare se non il lavoro. Questo tiene uniti e consente ai più giovani, a quelli che arrivano per ultimi, di acquisire subito quelle informazioni, quelle conoscenze che sono necessarie per andare avanti. Quindi questo è uno dei pochi vantaggi che le sedi disagiate danno, cioè non c'è la dispersione delle grandi città e c'è una grossa condivisione del lavoro. Devo dire però che negli ultimi anni, almeno questo lo scrivo anche nel libro, la sensazione che ho avuto è che il desiderio di allontanarsi il più possibile è diventato più forte. Io ho sofferto molto quando sono andato via. Per me insomma, la Calabria ha rappresentato un'esperienza importante, avrei voluto restare. La sensazione che ho avuto negli ultimi anni è che vi fosse proprio il desiderio di andarsene, una crescente impotenza rispetto a quello che si vede, a quello che succede intorno, e un desiderio di seguire i percorsi della propria vita piuttosto che quelli professionali. Questo devo dire l'ho avvertito e temo sia ancora così. A un certo punto, di alcune indagini che tentano di alzare il tiro verso la parte meno visibile, non solo quelli che sparano o quelli che fanno le truffe, ma insomma chi sta in alto, a un certo punto, alla fine di un capitolo, verso la fine del libro, lei scrive: ancora una volta fu un tentativo inutile. Erano già passati quasi 10 mesi dal momento in cui avevo iniziato le indagini e avevo impiegato tempo, risorse economiche, uomini. Anche il sostegno che inizialmente avevo avuto all'interno dell'ufficio era ormai venuto meno, e chiedere uno sforzo ulteriore, un impegno maggiore, servì soltanto a farmi capire che non ci credeva nessuno. Il che torna un po' a quello che stava dicendo. In definitiva dice: non si può solo per via giudiziaria riuscire lì a scalzare fenomeni tanto radicati, tanto profondi e tanto poi intrecciati anche con parti meno evidenti, e che poi lì nei processi è raro che ci finiscano. E allora, se non per via giudiziaria e basta, ma oltre la via giudiziaria, che cosa manca lì davvero? Guardi, la questione è forse un po' quello che dicevo anche prima. Dunque, in un sistema normale, fatto di regole normali, i magistrati dovrebbero intervenire quando queste regole vengono violate, e quindi punire il singolo comportamento che è una deviazione rispetto a un sistema di regole. Quando questo sistema di regole non c'è, le regole sono completamente al contrario, cioè tutti sanno che in Calabria, come anche in altre regioni del meridione, esistono centinaia di aziende agricole interamente fasulle e l'INPS paga regolarmente le indennità di disoccupazione e di maternità a operai agricoli che non esistono. Lo sanno tutti, cioè è una cosa assolutamente nota che in queste regioni questa è un sistema di ammortizzatore sociale alternativo. Ora, questo è un fenomeno che si può affrontare per via giudiziaria, perché ogni agricoltore fasullo che viene assunto vengono commessi 3 reati, quindi è una cosa che per via giudiziaria va punita, ma sono migliaia ed è impensabile che si risolva soltanto così. Questo vale per le aziende agricole, ma vale paradossalmente anche per l'andrangheta, che è un fenomeno, per la corruzione o per gli omicidi colposi che vengono ripetutamente commessi in ambito sanitario o sul lavoro. Allora, questi fenomeni, che sono così presenti in Calabria ma anche altrove, non possono essere risolti soltanto per la via giudiziaria. La via giudiziaria è qualcosa che viene dopo che si è rotto il sistema di legalità. Lì va ripristinato un sistema di legalità. La giustizia è una cosa che segue la violazione della regola. La legalità è qualcosa che viene prima. Allora, se non si ripristina un sistema di regole, e questo deve essere ripristinato con il concorso di tutti, io non voglio fare una colpa di una categoria, dei magistrati, dei politici o dei giornalisti o magari addirittura dei calabresi, peggio ancora, ma il problema è che bisogna prendere atto del fatto che non esiste un sistema di regole, va ripristinato un sistema di regole e su quel sistema di regole può operare correttamente anche il sistema giudiziario. Così è molto molto complicato. Io ringrazio Francesco Cascini, ancora una volta vi dico, leggete Storia di un giudice nel far west dell'Andrangheta e i Nadi, e ricordiamo che attraverso pezzi di vita come questi raccontati, fallimenti di come procede l'ordinamento giudiziario nel nostro paese e di come non bastino loro, perché c'è una legalità da ripristinare e da combattere, bisogna combattere per ripristinarla, io penso che dobbiamo ricordarci tutti i giorni, da oggi in poi, del procuratore capo Calogero Ferrotti, che sta da solo per i prossimi mesi a vedere sconsolatamente i fascicoli che crescono mentre lui da solo e 4 che gli mancano, e questo 11 su 12 nel suo distretto di Corte d'Appello. Questa è l'Italia di oggi a cui, cari ascoltatori, dovremmo tutti cercare risposte diverse invece di litigare. Grazie ancora a Francesco Cascini, grazie a Raffaele Cantone, grazie a Camillo Lauricella in regia, grazie a Alessandro Marco Turni in redazione, grazie a Cascini davvero, Lino al Giornale Radio, appuntamento a domani.